noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Penetra Insigne, doppia finta, questo è per procedere. Prova il tiro lui! Data incredibile! Proprio lui! Un gioiello capolavoro di Lorenzo Insigne! Noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio della partita, sapevamo che oggi era importante fare risultato. Ce l'abbiamo messa tutta e ne basta la pena perché i sacrifici vengono ripagati. Zielinski, mezzo a due. Si muove Mertens, tocco per lui, la rimette in mezzo Zielinski, rete, rete, 2-0, grandissimo scambio con Mertens, si fa perdonare l'errore di prima, 2-0. Ci fa piacere la prestazione, ci fa piacere aver dimostrato che ci teniamo anche alla Coppa, però purtroppo non siamo completamente in mano nostra, quindi noi dobbiamo solamente pensare di andare in Olanda e cercare di strappare i punti e poi purtroppo dobbiamo aspettare. Cross verso il Biol, riesce a toccare, Biol, attenzione, rete, rete, tutto regolare, sotto misura, non può sbagliare Mertens, ma gran merito ad Biol, 3-0. Sono contentissimo dopo questo e oggi abbiamo fatto bene perché era il momento per noi per fare vedere che siamo comunque una squadra anche in Champions, possiamo fare bene. Giorgio, il nostro autore Gianmarco Ferronati, regia, Pierluigi Pardo che è a Madrid dove questa sera racconterà la gara della Roma di cui poi parleremo, Nando Orsi che invece era raccontato quella Ciao. Del Napoli, saluto tutti. Ciao, buongiorno Ciao, a voi Nando. Ragazzi. E abbiamo sentito gli highlights sonori della partita del Napoli ieri sera con lo Shakhtar. Insigne, Sarri e Mertens, queste erano le voci nell'ordine e qualcuna delle vostre voci, compresi i convocati 800240024, mi deve spiegare di nuovo perché io non lo capisco e sono duro di comprendogno perché cavolo Insigne non l'abbiamo visto con l'azzurro della nazionale. Il gol di ieri sera è una cosa da perdere la testa, Pardo, non so se l'hai visto. Certamente non l'ha raccontato tu perché sennò avresti usato molta enfasi. No, ma capisci se la sia cavata giustamente, sì, perché sì, era un gol speditoso. No, devo dire proprio lui. Capolavoro. Sensazionale. No, battute. Però no, insomma dai, adesso poi vedo ieri sera Trevisani, prima Paolo Condò, ormai facciamo tutti questo lo stesso tweet praticamente sul fatto che Insigne era squalificato oppure infortunato contro la Svezia. Evidentemente non è così, io ragazzi dobbiamo fare un passo avanti, sembriamo una di quelle comunità. Non so, siamo una banda di vecchie zie, che vuoi fare, Pardo? E allora? Ma chi ce lo ridà adesso quest'estate? Chi ce lo ridà? Bravo, Nando, bravo, chi ce lo ridà? Cosa facciamo quest'estate? No, senti, allora provaci tu. L'hai commentato ieri sera, l'hai visto ieri sera al San Paolo. Insomma, non farmi discorsi di numerini perché ne ho già sentiti troppi. Un giocatore come questo che fa due passi e mette la palla nel 7 da solo e senza costruire una particolare azione. Poi da lì in poi il Napoli è stato meraviglioso, dilagante, questo 3-0 rotondo che molto difficilmente lo qualificherà. A proposito vi chiedo anche quante possibilità secondo voi il Napoli di passare poche. Perché sei così pessimista? Perché secondo te il City va sul campo dello Shakhtar per vincere la partita col coltello tra i denti? No, ma guarda che va a giocare a pallone. Prego, Nando. No, dico gli inglesi solitamente è gente che gioca. L'unica cosa che mi sembra che la domenica o il sabato il City c'ha lo United in Premier League. Quindi siccome Guardiola genialmente, perché io ritengo un genio, è abituato anche a sperimentare molto, qualche ragazzotto secondo me lo mette dentro. Questo lo insegna la sua storia, Esatto, e qualche ragazzotto secondo me lo mette dentro. Però al di là di tutto tra il City e il Donetsk c'è una differenza tecnica straordinaria, cioè proprio è come la collina e il Monte Bianco, e quindi se fa il suo dovere la partita la vince, però lì sono le motivazioni, perché poi dopo in campo ci vanno i giocatori che a Donetsk troveranno troveranno caldo, eh. Ma sarà sì, freddo, chiaro. Ma troveranno caldo. Chiaro. E quindi sai, che ti devo dire? Guarda, io sono, adesso dire che sono ottimista è un discorso stupido, però io non la vedo così impossibile. Il City andrà, farà qualche cambio, c'è De Bruyne che ieri si è fatto, secondo me, anche simpaticamente qualificare, ma non cambia, perché la qualità del City è tanta. Che il City vada in campo in Ucraina a regalare la partita allo Shakhtar, io non ci credo. Per cui sarà un City sicuramente con qualche motivazione in meno, ma tante volte, se tu fai giocare quelli che, soprattutto in una squadra che ha una panchina come quella del Manchester City, se fai giocare quelli che giocano meno, quasi un vantaggio. Cioè, in quelle partite lì, in una partita che è essenzialmente un amichevole, hanno più motivazione probabilmente quelli che giocano di meno, che vogliono metterti in mostra. Io non credo che il City andrà a regalare la partita in casa dello Shakhtar. Per cultura non penso proprio che facciano robe di questo tipo. No, deve andare per vincere, diciamo, però. Deve andare per vincere. Io ti dico, se c'è un 30-40% di possibilità, non sono di più. Probabilmente se il City fosse con le spalle al muro sarebbero di più, ma secondo me un 30-40% di possibilità ci sono. Ecco, non è così assurdo che il City vinca anche. No, non è assurdo in valore assoluto. No, Pierluigi, su questa hai ragione. Ma poi ieri qui sulla porta dello studio, ti ricordi bene, a microfoni spenti, abbiamo fatto una sorta di calcolo abbastanza folle delle possibilità. Scusate, ho fatto un calcolo statistico, la prima delle tre condizioni si è verificata, certo, okay. E su quella eravamo grosso modo tutti d'accordo. No, insomma, avevo il 55% di possibilità che Napoli ribaltasse lo Shakhtar. Scusate, non ti dico che secondo me più è fatto, ma Sei ottimista, ma mi fa piacere, eh. Scusate se insisto, signori, vi faccio sentire Sarri sul suo giocatore di punta. Ma Lorenzo è questo, negli ultimi tre anni è cresciuto tantissimo, penso sia diventato un giocatore di livello internazionale e è uno di quei giocatori che penso debbano essere tenuti fuori anche dalle rotazioni, perché sono giocatori importantissimi. Poi è chiaro che quando li possiamo risparmiare 20 minuti lo facciamo, ma rinunciarci a priori io perlomeno non ce la faccio. Questo è un discorso molto interessante. È chiaro che Insigne non fa parte della categoria di Messi o di Cristiano Ronaldo, però Sarri dice una cosa interessante, ripeto, perché è uno di quei giocatori che giocano sempre, lui più altri 10. L'aveva detto Mourinho a proposito di Ibrahimovic, vi ricorderete anche Pierluigi e Nando, quando comunque Sacchi non toglieva Van Basten neanche nelle amichevoli, tanto per dire, ed è un esempio così flash che mi viene in mente. Cosa ne pensi, Nando? Beh, che ci sono quei giocatori ai quali tu devi dare praticamente la maglietta tutte le domeniche, ma d'altronde nelle grandi squadre è giusto che sia così, perché certo, sennò sarebbero grandi squadre se non hai grandi giocatori, cioè se non hai quei giocatori che anche se giocano male ti risolvono la partita in qualsiasi momento, perché hanno qualcosa in più degli altri, e quindi queste qualità tu devi sempre mettere al servizio della squadra, al di là della tattica, al di là se Insigne rientra o se Dybala rientra o se Messi rientra o se Lewandowski rientra, e quindi sono giocatori universali che devono stare lì, quindi è ovvio che Sarri non ne può fare a meno, è impossibile farne a meno. E quindi poi dopo alla fine, nonostante abbia fatto una partita normale secondo me, perché ha fatto una gran cosa nel primo tempo, però poi dopo quando ti fa quel gol così, si vive per quello, ma gli metti 9, esatto, il calcio vive di quello, il calcio vive queste cose. Ma infatti, tanto per tornare al nostro momento da comunità di recupero della stinezza da mondiale, sì. Una delle cose più assurde della vicenda è proprio che Insigne fa bene. Devo dire che la sua reazione alla delusione mondiale è stata clamorosa, forse anche al di sopra delle aspettative, sì. Ma certamente Insigne stava bene, si sapeva che stava, insomma, non è che c'erano molti dubbi su questo. Per cui, francamente, aspetta, sta bueno? Sì? Sta bueno, pagato il taxi? Sì, ho pagato il taxi. Sta bueno? Hai pagato il taxi? Con l'app, hai bisogno di qualcosa? Vuoi che ti mandi un bagno? Non faccio pubblicità, ma ho pagato un taxi con l'app, con la stessa app che ho in Italia, qui a Madrid. Ma grande. Quindi non hai bisogno che ti mandi un vaglia, se no possiamo chiedere anche Nando Orsi. No, esatto. Quindi, scusami, per cui voglio dire che le condizioni di Insigne fossero buone, si sapeva. Poi lui ha reagito a questa delusione in una maniera forse anche, insomma, incredibile, no? Nel senso che comunque una partita come quella che ha fatto col Milan, una partita come quella, non è che tutte le volte gioca come ha giocato col Milan e con lo Shakhtar, ha fatto due partite da otto e non è che Insigne fa sempre solo partite da otto, però che nel contesto oltretutto non di clamoroso talento della nostra nazionale uno come Insigne dovesse giocare, insomma, mi pare. Va bene, dai, proviamo a pensare ad altro. State lì, ragazzi. Adesso fai quella. Mi piace. Bravo. Proviamo a pensare ad altro, ragazzi. Traffico, torniamo. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. E torniamo, perché a Nando Orsi volevo chiedere un parere, oltre che su Napoli, insomma abbiamo detto già molte cose, quasi tutto, volevo chiedere un parere sulle partite di questa sera. C'è un Atletico Madrid-Roma che racconterà Pardo, che infatti si trova a Madrid, c'è un Juventus-Barcellona che è una grande vetrina che abbiamo ammirato e guardato molte volte negli ultimi anni. Secondo me, Nando, la Roma deve andare a Madrid per vincere la partita e provare ad arrivare prima. Ah, sicuramente sì, anche se devo dire la verità, arrivare prima di questi periodi in questi ultimi anni non è che è stato proprio un vantaggio incredibile, l'abbiamo visto anche con i sorteggi. Al di là di tutto, penso anch'io, proprio per continuare ad avere a mettere in campo quello che ha messo contro il Chelsea, perché la svolta della Roma quest'anno è stata proprio le due partite col Chelsea, dove ha dimostrato personalità è andata lì a vincere. Poi hanno detto tutti che il Chelsea non è il Chelsea di una volta, non è il Chelsea di Conti, invece secondo me il Chelsea è una grande squadra e andare a fare tre gol lì non è semplice, sì, fargli tre gol senza subirne in casa non è semplice. Detto questo, le due partite sono stupende, sono fantastiche, sono molto affascinanti, ma quelle che contano sono quelle dopo, perché al di là di tutto la Juventus deve andare a vincere con l'Olympiacos e la Roma deve vincere o prendere un punto con il Karabakh. Quindi sono bellissime queste due partite, affascinanti, però è l'ultima poi che conta. A meno che la Roma non vinca o non pareggi oggi, già chiude il discorso, però insomma mi sembra che le due italiane hanno una grande possibilità con l'ultima partita. Senti, per chiudere, Nando, tu e tuo figlio che avete scritto questo libro insieme, che si intitola A mani nude. Avete imparato a parare con i guanti o con sempre mani nude? Ma sai che c'è, che ho parato una vita con i guanti e adesso invece su questo libro mi metto a nudo, proprio mi spoglio dal calciatore e mi metto a nudo come uomo. E quindi è ovvio che l'ho fatto io in prima persona e mio figlio mi ha dipinto in vizi tanti e virtù poche a modo suo, perché lui ha già scritto un libro, quindi ha un po' romanzato questa cosa e sono cose carine, simpatiche, belle, un po' uno spaccato dei giocatori degli anni Ottanta, dove adesso si risolve tutto con i soldi. Prima, adesso conosco giocatori, miei colleghi, che fanno lavori degni ma che non vivono di rendita come direbbero adesso, quindi degli atleti particolari, degli atleti di altri tempi. Beh, io sogno un brainstorming tra Pardo e Nando Orsi, chissà cosa può uscire tra Mani Nude e libro di Pardo. Allora, guarda, io Fernando l'ho conosciuto, devo dire, colpevolmente da poco, nel senso dagli anni in cui facciamo delle cronache insieme e insomma per quel poco, il quale posso confermare che è una persona molto stimolante, cioè una persona con la quale ci si diverte, si va in trasferta, si viaggia, che insomma non tutti i calciatori sono così, quindi questo è l'oggettivo. Il libro adesso lo leggo, ce l'ho là sul mio comodino e lo affronterò a breve e insomma voglio dire, poi ci riporta un tipo di calcio romantico di qualche anno fa, che insomma è quello, le famose maglie di lana, no? Che per la nostra generazione i quarantenni sono l'inizio di tutto. Significavano qualcosa, siamo degli inguaribili romantici. Io tra l'altro sono qua con Ricci, Ricci è già operativo. Ricci, operativo, adesso tra poco lo chiamiamo Ricci, tra poco lo chiamiamo. Anzi, adesso mandiamo la foto insieme che potete bene, che poi saluto te e chiamo Ricci. Intanto saluto Nando Orsi e lo ringrazio. Ciao, ragazzi, Nando, grazie, un abbraccio. Ciao. Poi Pierluigi, Fausto e Dario, primi due ascoltatori di oggi, uno da Lodi, l'altro da Napoli, 800240024, siete sempre tutti convocati. Fausto. Sì, buongiorno. Io ho una semplice domanda. Nei giorni scorsi avete fatto un parallelo tra Ventura, che non ha dato le dimissioni, e Prandelli e Lippi, che invece le avevano date a loro tempo. Però a me è venuto in mente Inter Helsingborg. L'allenatore era Lippi. Mi ricordo una sceneggiata patetica a Reggio Calabria e mi ricordo che in campo c'era Kansukur perché Baggio era stato messo alla porta. ma lì dimissioni non ne sono viste, cioè io non ne ho viste. Non ne ha viste, però non era un giudizio morale tout court su Lippi meglio di Ventura o cose del genere. Poi è semplicemente una, per me, ripeto, la situazione di Ventura, permesso che è facile parlare dei soldi degli altri, e secondo me da un punto di vista di puro diritto, se uno viene ingaggiato e ha delle garanzie, ha delle tutele, sempre lavoratori sono, e quindi non certo, c'è niente di male. Ma quello che sostengo io, credo che sarebbe stato nello stesso interesse di Ventura più giusto e più tattico mettersi d'accordo con la nazionale, stabilire una strategia di uscita in caso di fallimento e potersi presentare magari con una buona uscita già concordata al finale di quella partita con delle dimissioni che secondo me gli avrebbero fatto bene anche dal punto di vista dell'immagine, anche per il futuro, perché è vero che ha 69 anni, ma non è detto che non alleni più. Cioè, io ribadisco, Ventura ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare gli ultimi 3 mesi, ma se guardiamo la sua carriera non è che adesso è diventato una pippa improvvisamente, ma questo è evidente, ha fatto anche eccellenti cose, probabilmente era l'uomo sbagliato nel posto sbagliato, ma questa non è nemmeno colpa sua. Io gli auguro di trovare panchina più presto, cioè non è che nessuno ho i miei dubbi, ne abbiamo discusso a lungo ieri, sono d'accordo con te Pierluigi, è stata semplicemente una vicenda molto mal gestita da entrambe le parti, poi motivi ci sfuggono, ma tanto è lì da leggere. Mi preme sottolineare che allora Lippi quel giorno, per la cronaca, quel giorno ormai lontanissimo a Reggio Calabria, mi ricordo, disse: fossi Moratti questi allenatori li prenderei a calcio nel culo, manderei via l'allenatore, e venne mandato via. Furono in qualche modo fu un esonero grosso modo pilotato, però mi sembra anche difficile fare un parallelo tra la nazionale e il club. Dario da Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno. È un piacere parlare con voi. Piacere nostro. Salve, no, volevo ritornare sempre sul discorso nazionale, insomma, se ne è parlato già molto, però diciamo che mi dispiace, insomma, per vedere un ragazzo come Insigne, un ragazzo giovane, però si fa più peso sul Buffon che ha perso l'ultimo mondiale, ma ne ha fatti 4-5. Bravo, lui. Bravo. È vero? 5. Ma non è una gara, Non è una gara, però questo ci può portare ad un discorso: la nazionale del futuro può essere impostata su Insigne, può essere Insigne il capofila dei giovani che verranno? Assolutamente sì, senza sovraccaricarlo di pressioni che non servono mai, che fanno solo male, ma assolutamente sì, Insigne è il punto di partenza. Ma in questo, ragazzi, lo diciamo da tempo, io lo dico da tempo, dalla famosa polemica, secondo me un po' ridicola, sulla numero 10 al Bernabeu. Cioè, se c'è uno che può vestire il numero 10, ripeto le stesse parole che dicevo mesi fa, è Insigne, e lo sta dimostrando di partita in partita. Però non vedo francamente nessuna contrapposizione con Buffon. Quello che ha fatto Rakitic, secondo me è molto bello, avrete seguito, insomma, gli ha twittato una cosa tipo: sarei disposto a cedersi il mio posto al mondiale per far giocare te, e Buffon gli ha detto: guarda che cresce il naso, rumore del naso che cresce. Sono quelle cose che si dicono, però sono quelle cose belle, perché se noi ci sforziamo di trovare nel calcio un senso bello, alto, culturale, solidale, di rispetto dei grandi campioni, questo vale per Insigne, vale per Buffon, e io credo che ieri la cosa di Rakitic sia stata molto bella, la risposta di Buffon pure. Insomma, è la dimostrazione che i grandi campioni lasciano qualcosa nella storia. Buffon è certamente fra questi, certo. non è una gerarchia, non è vuoi più bene a uno o all'altro. Non è vuoi più bene alla mamma o al papà, no, è chiaro. Belle da raccontare. Ma questo è evidente. Giuseppe, buongiorno. Sì, ciao a tutti. Dica. E complimenti per come raccontate il calcio. Grazie. Non per la solita trasmissione, che bella, ma per come raccontate il calcio. Volevo fare una domanda, se possibile, a Pardo. Sì, come no. E in merito all'utilizzo dei campioni, faccio un passo indietro sul discorso che trattavate prima. Sono d'accordo intanto con Orsi quando dice che la maglia campione va data tutte le domeniche, riposo permettendo. A questo proposito volevo chiedere a Pardo: c'è la possibilità, se lo sa ovviamente Pardo, o di sapere quanto è il tempo che utilizza, che ne so, l'allenatore del Barcellona per Messi o per Cristiano Ronaldo? Io vedo che questi campioni giocano sempre. Sì. Sembra quasi. Cioè, il problema forse ce lo facciamo noi sul turnover, magari è tornato dalla nazionale, lo facciamo riposare, eccetera. Ma questi giocano sempre. Da Ricci, vuole sapere esattamente quando fanno turnover Messi e Cristiano Ronaldo? Mai. La risposta è semplice: tre lettere. Sì, tanto io e te ci sentiamo, sì, anticipiamo la scaletta. Tra 5 minuti sentiamo, finiamo il discorso con Pardo e seguiamo la scaletta dopo la borsa. Filippo Maria Ricci. Caramba, sì, un po' caramba qui, Madrileno, sì, tanto. Dice che devo espandere il concetto perché si mangia un'oliva intanto. Sì, si espande il concetto perché intanto che Pardo mangia un'oliva c'è una fame dannata, se lo conosco bene. Ma guarda, tanto espandiamo il turnover. Ma è normale, i grandi campioni giocano, punto. Io ho citato prima, era un'altra era geologica, però Van Basten, che nel Milan non usciva mai neanche in amichevoli, Maradona la stessa cosa, non abbiamo mai visto nemmeno in altre ere geologiche dove tutto era diverso i grandi campioni fare turnover, e non lo vedremo mai, io credo, salvo Insigne. Mi ricordo le partite di Platini erano sempre 30 in campionato, mi sembra una cosa così, o non so, non so che avesse le ginocchia di vetro, e anzi tu li conosci bene, Filippo, questi quando li levi gli girano anche le palle certe volte, quindi meglio lasciarli lì, ragazzi, gestitevi, andate a dormire presto, mangiate bene, fate i bravi perché tanto giocate. Andrea da Verona. Sì, pronto? Dica. Buongiorno, volevo farle ragionare su un punto di riflessione, un parallelo tra Milan e Nazionale, nel cui si trova Bonucci, che o è un portatore sano di un virus o è gli stesso il virus, e ho trovato sia i due allenatori che abbiano modificato l'assetto, quindi il Milan con una finta difesa 3 in cui Borini deve fare il terzino, poi si sposta tutto mettendo in crisi tutto il sistema, così come Ventura che nelle ultime partite ha tradito il suo 4-3-3 o 4-4-2 che ha usato nel Torino, insomma, negli ultimi anni, e anche lì mettendo in crisi un sistema nel quale Insigne, che citavate prima, faceva fatica a inserirsi, piuttosto che Costa, che mi viene in mente, è stato usato da Ventura anche al Torino, lo conosceva bene, era un buon esterno, poteva fare il terzino. Andrea, la risposta è facile, cioè, dal mio punto di vista la risposta è facile, nel senso che sono due situazioni diverse. Nel caso della Nazionale il modulo è stato dettato a Ventura dallo spogliatoio, e questo lo sappiamo, è innegabile, è acclarato, è cronaca. Nel caso del Milan, io credo che, insomma, Bonucci sia una sorta di, ma anche in Nazionale questo, di capro espiatorio per una situazione che non funziona. È vero, è un giocatore, conosciamo, di grande personalità, uno che si prende responsabilità, che guadagna molti soldi, molto chiacchierato, molto discusso, però in questi casi funziona come una sorta di capro espiatorio, e quindi tutti dicono, ecco, il virus è lui, ma non credo sia così. Com'era l'oliva, Pierluigi? Buona, ma che stai andando a mangiare? Prima. Non era la prima, quindi già lo sapevo, però sì, buona, l'oliva di qualità. Ascolta, adesso c'è grande dibattito, per esempio Buñuelitos de queso, hacemos, e la rossecco con codernizzo artolans, scusa gente. No, che non ho capito nulla, ma comunque va bene, no, nessun problema, no, ti dicevo solo, prima di lasciarti, dimmi qualcosa sulla partita di stasera che andrai a raccontare, che sensazioni hai? Poi magari adesso mi riconnetto col signor Ricci. Comunque no, le sensazioni sono buone, nel senso che la Roma ha dato in questo momento un grande segnale di forza, di solidità. È più un discorso, secondo me, di tradizione della Roma. A parte, voglio dire, l'Atletico Madrid è una squadra strana perché ha un sacco di problemi quest'anno, fa molta fatica a vincere ma fa anche abbastanza fatica a perdere, nel senso che comunque in casa ha fermato sia il Barcellona che il Real Madrid, non è in serie positiva. Il vero paradosso è che in una lunga serie positiva va piena di pareggi, 2 vittorie e 7 pareggi nelle ultime 9 partite, e quest'anno ha perso una volta soltanto contro il Chelsea in Champions League, quindi è un vero paradosso, nel senso che è una squadra che segna poco, subisce poco, aspetta una partita spigolosa. Il Real Madrid in questo momento, secondo me, non ha la forza, spero di non sbagliarmi, non ha la forza per mettere sotto la Roma sul piano del gioco, per cui ci vuole grande attenzione, grande personalità, sono tutti discorsi un po' astratti, però è quella roba lì, attenzione, però anche consapevolezza dei propri mezzi, perché se c'è un momento in cui l'Atletico Madrid può andare in confusione negli ultimi anni è questo, e la Roma deve approfittarne. Sì, certo, grazie Pier, buon lavoro. Ciao, forse buon ci lavoro vediamo dopo, dipende da lì, guarda, tanto torniamo a collegarci con lì, con Filippo Maria Ricci dopo la borsa, quindi siamo tutti amici, siamo tutti fratelli. 800 24 00 24, se volete intervenire. Comunque, borsa, torniamo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. vi presenta Tutti convocati. In 14 partite il Barcellona ha subito solamente 2 gol. Forse ha segnato qualcosa in meno perché ha fatto solamente 22 gol, subendone solo 2. Quindi hanno un equilibrio maggiore, difendono molto meglio e concedono molto meno. Quindi per noi domani sarà una partita difficile perché dobbiamo ancora centrare l'obiettivo qualificazione, è ancora tutto aperto e tra l'altro abbiamo la possibilità domani eventualmente ad Atene. Non mi aspettavo che l'Atletico avesse 2 punti in classifica, questo sicuro, però il nostro cammino, al di là della prima partita difficoltosa con l'Atletico, abbiamo fatto veramente bene, magari avremmo meritato anche la vittoria a Londra contro il Chelsea e non l'abbiamo avuta, parlando delle partite magari dove ci è andata magari meglio con l'Atletico. È ovvio che noi dobbiamo in questo momento cercare prima di tutto di qualificarci e magari di arrivare anche primi in classifica. Avete sentito la vigilia di Allegri che ospita il Barcellona e di Francesco a Madrid sul campo dell'Atletico. Pardo ci ha rovinato la sorpresa, ma tanto sorpresa relativa, perché Filippo Maria Ricci abita su queste frequenze, oltre che sulle pagine della Gazzetta dello Sport, professionalmente parlando, sta claro. Dottor Ricci, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. L'avete annunciato su Twitter, altro che sorpresa. Vabbè, ho capito, ma sai, mica tutti gli ascoltatori guardano Twitter. Noi annunciamo sempre tutto, annunciamo sempre i nostri ospiti, anche perché sei uno dei più amati. Adesso sto facendo un po' il paraculo. Grazie. A me interessa, no, ti dico, a me interessa molto di più la partita di Madrid che non quella di Torino, perché dicevo, quella di Torino è una vetrina di lustrini e di alta moda, ma che abbiamo visto molte volte che in fondo conta il giusto. Quella di Madrid secondo me conta di più come peso specifico, anche per capire diverse cose. La prima cosa è che la Roma dovrebbe giocare secondo me per arrivare primi in questo girone, per vari motivi ovviamente facilmente comprensibili. L'Atletico Madrid io non capisco più nulla, perché mi sembra una squadra che ha finito il suo ciclo. Sì, però bisogna sempre prenderla, diciamo, con le pinze, con le molle, però sicuramente sono d'accordo, la partita principale è questa di Madrid, soprattutto per la Roma, per capire dove sta, dove può andare, dove può arrivare, no? È in un ottimo momento, va sfruttato, è chiaro che voi, se anche le cose dovessero andare male, come mi aveva detto Monchi quando l'ho intervistato, hanno un'altra pallottola da sparare, per cui a maggior ragione bisogna venire qua a giocarsela, è la terra di Monchi, si gioca un certo calcio, si può provare, si può osare. La Roma lo deve fare, anche perché deve approfittare di questo Atletico che io vedo in grandissima, grandissima difficoltà proprio sul piano calcistico. Poi il resto rimane sempre una squadra solida, prende pochi gol, tutto quello che vogliamo, però è una squadra che calcisticamente è in difficoltà, e allora perché non approfittarne? No, chiaro. Senti, spettegoliamo un po'. Tutto questo vuol dire che il Ciolo Simeone sarà sul prossimo mercato allenatori, con tutte le conseguenze del caso? Guarda, questo io non ci capisco più niente, perché se non ci capisci più, figurati io da qua. Esatto, no? Allora, un anno fa, parliamo solo di fatti, si taglia il contratto, ce l'aveva no? al 2020, lo mette al 2018, no? Lo taglia lui, il primo allenatore che si taglia il contratto, va bene, perché dice, vi accompagno al Wanda, facciamo suo trasloco, difficilissimo, complicato a livello ambientale, dice, e poi vi mollo, me ne vado, benissimo. Poi cosa succede? Adesso, un mese e mezzo fa, ha rinnovato fino al 2020, l'ha riallungato. Allora, fateci che capire. Sta succedendo? Fateci capire, questo è un po' il concetto. C'è tra le ragioni, una delle ragioni era il fatto che lui ha insistito tanto per far tornare Diego Costa, che adesso è fermo perché l'Atletico non può prendere giocatori per la sanzione FIFA. Arriva a gennaio e quelli dell'Atletico hanno detto: senti, noi facciamo tornare questo qua che sarà anche un grande giocatore, però ha un carattere che solo tu puoi gestire, per cui resta con noi. Una delle ragioni. E in generale è stato, diciamo, Simeone ha visto che gli conveniva rimanere. Detto questo, adesso si trova a gestire una mezza fine ciclo. Io dico ancora mezzo perché bisogna vedere come va finita, no? E quindi non ci capisco tanto, non è chiara la situazione, secondo me non ha le idee chiare neanche il Ciolo. No, questo non ha le idee chiare nessuno, sì, no, questo mi sembra evidente da tutta la situazione. Per chiudere, Filippo, diamo una pennellata di altra Spagna che abbiamo visto ieri, Real Madrid 6-0, Nicosia è secondo nel girone perché il Tottenham ha vinto a Dortmund e quindi è primo matematicamente, quindi il Real si deve accontentare di questo secondo posto. Come l'anno scorso. Come l'anno scorso. Quindi cliente complicato, eh? Vabbè, questo sa va a sandire. E poi c'è la storia del Siviglia con questa bizzarra partita contro il Liverpool che vinceva Siviglia 3-0. Poi si comporta al contrario di quanto aveva fatto ad Atene, i milanisti se lo ricordano, 3-3 il risultato finale e poi tutti ad abbracciare Berrizzo, allenatore del Siviglia, perché ha annunciato che è affetto da una malattia e quindi è stato un cancro alla prostata e quindi serata da strana, bella da libro cuore. Sì, poi con anche un pizzico di fake news, perché qualcuno aveva detto che avrebbe annunciato la malattia nell'intervallo galvanizzando i suoi, ma non è così, lo sapevano da giorni. Però tolto questo aspetto, diciamo, sentimentale, emozionale, è stata una partita assurda e adesso comunque resta il problema, perché il povero Berizzo comunque il suo cancro alla prostata ce l'ha e adesso si deve curare, e vediamo cosa vuol dire, perché ancora il Siviglia non ha dato grandi delucidazioni in merito, bisogna vedere se si deve operare, se deve fare chemioterapia, quanto tempo, se se ne va, non se ne va, insomma questo è tutto da vedere. E la partita di ieri sera assurda, molto divertente per noi neutrali, che lascia poi il gruppo completamente aperto. Il Liverpool a me continua a fare una pessima impressione, è una squadra incompiuta, incompleta, e il Siviglia, diciamo, trascinato da un grande Banega, già mi metto a ridere solo perché penso agli interisti, agli italiani, Banega è fenomenale, come anche con Doppia, due giocatori qua in Liga fenomenali, trascinato da Banega è riuscito a risalire e grazie allo stadio e tutta l'atmosfera, e adesso vediamo se, insomma, come sarà con quanto Real, che mi dici? Real è a fame solo di Champions, mi sembra di capire. Pare anche a me, anche Cristiano Ronaldo, d'altra parte. Sì, esatto, è di nuovo Piccici. Sono 5 anni che Ronaldo è Piccici in Champions, lo è anche quest'anno, è già arrivato a 8 gol in campionato, non ne butta dentro una, un gol in più di 50 tiri, in Champions è contento, io lo capisco, questi sono motivati così, ne hanno vinte 3 negli ultimi 4 anni, la Liga non la vincevano da una vita, l'hanno vinta, e vabbè, insomma, andare a giocare col Getafe magari non si impegnano allo stesso modo. Anche se... Non è che ieri sera giocassero esattamente all'Old Trafford. Comunque, va bene, è tutto comprensibile. Sì, parliamo pure della musichetta della Champions se volete. Grazie Filippo, ti lascio andare a pranzare con Pardo. E adesso ci fermiamo per il traffico e poi allarghiamo un po' il discorso anche alla gara della Juventus. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Antonio Di Gennaro, buongiorno. Buongiorno a voi. Antonio Di Gennaro che stasera racconterà il gran galà di Torino tra Juventus e Barcellona. Dicevo prima, Antonio, questa è una vetrina, una delle più eleganti d'Europa, che abbiamo visto mille volte. Si tornerà a parlare del confronto tra Messi e Dybala, si tornerà sugli stessi temi che ormai, insomma, facciamo fatica a trovarne di nuovi. Tu questa partita come la inquadri? Quanto vale secondo te per la Juventus in questo particolare momento, al di là della classifica di Champions? No, vale tantissimo, perché, diciamo, la prestazione di Genova ha fatto riemergere un po' le problematiche di quest'anno. È una squadra che subisce molti gol, cosa inusuale per la Juventus degli ultimi anni, cosa che ovviamente ha coinciso con le vittorie in Italia, però anche con l'aggiungimento di due finali in 3 anni di Champions League. Quindi credo che valga molto, incontro una squadra molto forte che anche come solidità il Barcellona con Valverde è migliorata in maniera esponenziale, credo 4 gol soltanto nella Liga, 1 gol soltanto in Champions, questa dimostrazione nonostante tenendo sempre presente della capacità di giocare a livello, diciamo così, tecnico, con giocate pregevoli, con Messi sempre in grande spolvero. Ha perso Neymar, ma questo credo che non sembra averlo, diciamo così, risentito più di tanto, perché è una squadra mai più solida sicuramente in difesa, ma anche più, diciamo, equilibrata per quanto riguarda l'aspetto del recupero palla e di quello che può concedere agli avversari. All'andata è stata una Juventus, secondo me, come la finale di Cardiff, il primo tempo buono, secondo no, e questa è la dimostrazione che la Juve deve trovare una certa, diciamo, continuità, soprattutto negli uomini che possono ovviamente fare sì, gioco di squadra. Poi ci sono gli uomini che devono ovviamente essere quelli che hanno qualcosa in più, uno fra tutti è Dybala, che in Champions non segna da 7 mesi, proprio la doppietta dell'anno scorso contro il Barcellona, che è stato il punto più, diciamo, elevato delle sue performance. Poi il confronto con Messi non deve essere ancora, cioè, sempre fatto riemergere, no, perché Dybala non può abbastanza essere Messi, noioso, ma non lo sarà nemmeno. Ma no, non lo sarà nemmeno, ma certo, che deve crescere in intensità, in continuità e anche in alcuni atteggiamenti. Cioè Dybala che esce a Lisbona non fa bene né alla squadra, ma soprattutto non fa bene a lui. Certo, no, ma è chiaro, è una buttata giornalistica, un gioco giornalistico più che altro, esatto. E lo ammettiamo candidamente. Io ti ho chiesto quanto vale la partita di stasera per la Juventus, perché il momento della Juventus è un po' così. Basta sentire queste parole di Allegri alla vigilia. Quando si parla di sacrifici, direi che è una parola un po' troppo esagerata. Bisogna trovare piacere, perché quando si gioca a calcio c'è un obiettivo da raggiungere, che è la vittoria. Per raggiungere la vittoria bisogna giocare bene, e nel calcio ci sono due cose: una, quando hai la palla, che decidi te, e quando non ce l'hai decidono gli altri. E anche facendo la fase difensiva, anche quello ti deve dare soddisfazione. Però al momento abbiamo subito 14 e abbiamo perso già 2 partite. E una squadra come la Juventus non può e non deve perdere 2 partite per la forza che ha. E al momento la Juventus è una squadra da 4º posto in campionato. Capito, Antonio? È molto energico, ma anche molto lucido e veritiera la cosa, perché è così. Quindi io credo l'allenatore deve mettere, soprattutto perché alla Juventus stanno, cosa vuol dire nel DNA di loro, hanno la vittoria e soprattutto hanno questa capacità anche, e hanno sempre avuto quella capacità di soffrire, proprio a volte anche nel difendersi. Certo è che la Juventus nell'ultimo periodo è una squadra che segna di più rispetto anche agli anni passati, ma una squadra che concede tanto, e poi alla lunga l'equilibrio in questo caso è sempre fondamentale in una squadra. Stasera si vorrà ancora di più, cambia anche il modulo, questo 4-3-2-1, e Allegri ci ha abituato, no, nell'arco delle stagioni. L'anno scorso ci ricordiamo il famoso 4-2-3-1 dopo Firenze, e credo che questo sia un vantaggio per la squadra, che può trovare, diciamo, dei nuovi stimoli, nuovi accorgimenti quest'anno. Questa sera mi sembra anche la squadra, non essendo Mandzukic in campo, una squadra molto più tecnica, più dinamica, più rapida, con Dybala trequartista o Cuadrado o Douglas Costa dietro ai guai, però ovviamente con un centrocampo Matuidi, Khedira e Pjanic, che consenta a Pjanic, diciamo, di esprimersi ancora di più, essere più protetto, tenendo presente che poi Khedira e Matuidi, soprattutto Khedira, è un giocatore che ha queste caratteristiche di accompagnare la squadra, di dare quella fisicità che poi serve. Sì, guarda, io ti dico 2 cose al volo, poi ti saluto. Hai citato Mandzukic, secondo me quest'anno Mandzukic è chiaro, non poteva giocare una stagione come quella dell'anno scorso, però è uno di quelli che citavamo prima, i grandi campioni che non vogliono mai uscire se no si arrabbiano. Mandzukic è uno di questi ed è un leader della Juventus. Forse può essere un vantaggio, diciamolo sottovoce, il fatto che si riposi un po'. Poi, secondo me, la Juventus, al di là dei moduli, non so se condividi, ancora non ha trovato, o meglio Allegri ancora non ha trovato la chimica di questa squadra, nel senso il disegno complessivo, quelli che devono giocare e quelli che subentrano. Ma sì, anche perché poi quando arrivano questi risultati un po' impensabili, perché il 3-0 di Genova è una squadra, la Sampdoria, che gioca molto bene, chiaro. Però è impensabile, dopo anche il primo tempo aveva fatto la Juventus, quindi come ha detto in conferenza, le ultime parole che tu hai fatto risentire sono abbastanza nel modo energico, nel senso sono le due fasi, e quindi credo che proprio il cambio di modulo consenta a questa squadra di ritrovare un certo equilibrio, che poi man mano che va avanti, se trova, diciamo, continuità dei risultati, questo gli dà sicurezza, dà certezza, soprattutto a livello difensivo. E lo stesso Pjanic si è espresso: prendiamo troppi tiri, quindi ci deve essere un qualcosa, deve cambiare allenatore, percepisce certe situazioni, come è stato nel cambio di modulo nel 4-2-3-1, che è stato poi la base e la forza per arrivare e dare a reparto offensivo grande forza. Adesso non dico che fa un passo indietro, ma vuole una squadra più compatta, sì, equilibrata, soprattutto stasera, perché stasera può passare il turno, ma il Barcellona non viene qui a fare giustamente una passeggiata, quindi stasera secondo me è veramente una prova del 9, anche se potenzialmente può bastare anche un pareggio se lo Sporting pareggia contro l'Olympus, ma non può fare questi calcoli, non è da Juve, quindi no, è una squadra forte, diciamo decisa, molto concentrata, aggressiva, e credo che questo schieramento gli può dare una compattezza in mezzo al campo e poi alcuni calciatori devono venire fuori, non soltanto Dybala, deve rientrare un certo Alessandro che quest'anno non si è mai visto, e soprattutto ripropone De Sciglio, che Allegri ha voluto alla Juventus, ma questo ragazzo del 92 a 25 anni o viene fuori adesso, altrimenti è un altro talento che, insomma, su cui c'eravamo illusi. Bisogna capire. No, comunque hai ragione nel senso di dire che è una partita che farà opinione, al di là dell'importanza del risultato, farà opinione e avrà delle conseguenze anche nell'immediato sul campionato. Ma certo, quello appunto. Non scherza la Roma, non scherza l'Inter. Mettiamoci anche la Lazio, può essere una mina pagante, quindi la Juve, scherza nessuno, Allegri, mio caro, è quarta in campionato potenzialmente, perché la Roma e la Lazio, e quindi in questo è tutto dire. Poi ricordiamoci la Juventus dopo Sassuolo, che era la sest'ultima e ha vinto un campionato in maniera, e questa è la Juve che lui vuole, secondo me, ecco, per ripartire come ripartire dopo Sassuolo. Grazie Antonio, buon lavoro. A voi, ciao Antonio Di Gennaro, mi scuso con Riccardo la provincia di Perugia, con il quale non riusciamo a parlare per ragioni di tempo, ma domani, tanto, siamo ancora qui alle 14 tutti convocati. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferrati di regia, ciao a tutti. Ciao, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!